La notizia che aspettavo da anni l'ho trovata per caso su un giornale che di solito non leggo. Era su Unità di lunedì scorso, un gran titolo in prima pagina, taglio alto, 7 colonne, che annunciava un po' enigmaticamente, che tra l'Italia e gli Stati Uniti la legge Bossi aveva troncato i rapporti. Bisognava leggere il sommario e il catenaccio per scoprire che appunto in base alla nuova legge sull'immigrazione, cui l'onorevole Bossi insieme al collega Fini ha fatto da padrino, il consolato italiano di Boston, Massachusetts, ha negato il visto d'ingresso nel nostro paese a un distinto docente di ingegneria civile della Northeastern University, tale Dionisio Bernal, che intendeva passare un anno a Torino per lavorare a un progetto sulla diagnostica delle strutture presso un locale politecnico. Ottenuto un anno sabbatico dalla sua università, il professore si aspettava ovviamente di essere retribuito dall'Ateneo Subalpino, ma con la nuova legge la concessione del visto a un lavoratore dipendente extracomunitario è legata a tale e tanti adempimenti, garanzia di un alloggio, garanzia del biglietto di ritorno, a cui né il Politecnico di Torino né il Ministero della Pubblica Istruzione avevano la minima intenzione di sottostare. E poi sembra che la quota di immigrati prevista per l'anno in corso fosse esaurita, per cui il visto non gliel'hanno dato, il professore è furibondo e il direttore dell'unità ha ritenuto il suo caso meritevole di un'apertura a piena pagina. A me, a dire il vero, il fatto in sé così interessante non sembra, perché ad esempio di furia burocratica in Italia sono pieni i giornali, e del resto sono convinto che a Torino il professor Bernal finirà comunque per arrivare, per la contrizione del console e il giubilo del corpo accademico tutto. Ma era lo stesso una notizia che aspettavo da anni. Era da anni che aspettavo che scattasse la trappola innescata da quel termine extracomunitario, quel termine da cui incautamente abbiamo preso a servirci per indicare quegli stranieri che non siamo particolarmente ansiosi di accogliere nella penisola. E poteva capitare uno svizzero, naturalmente, o a un canadese, a un giapponese, a un australiano, ma il fatto che sia capitato a un professore di Boston, che volete che vi dica, mi sembra particolarmente appropriato, che un cittadino della potenza dominante, anzi un esponente della sua elite intellettuale, sia caduto nelle reti apprestate per tenere alla larga slavi, albanesi, africani e simile bassa genia, rappresenta nei tempi tristi in cui ci tocca di vivere un modesto ma sostanziale conforto. L'unità naturalmente ne approfitta per attaccare la legge Bossi-Fini, e fa bene, perché pochi testi legislativi meritano più di quello di venire attaccati. Ma ho come il vago sospetto che qualcosa del genere sarebbe potuto accadere anche ai tempi della Turco-Napolitano, o addirittura della legge Martelli. Perché non abbiamo certo avuto bisogno di aspettare il governo delle destre per diffidare di quegli stranieri di cui pure abbiamo tanto bisogno, e per stabilire un sistema di norme che invece di agevolare e favorire il loro inserimento nella nostra società vadano soprattutto a tenerli all'esterno della comunità di cui facciamo parte, in una posizione appunto da extracomunitari. Quell'espressione, ne converrete anche voi, è il tipico frutto di una cattiva coscienza, o più semplicemente di un'incoercibile ipocrisia. Non si poteva scrivere nero su bianco che in Italia non volevamo negri, slavi o in genere i poveri cristi del terzo mondo. Non potevamo promulgare delle leggi contro gli stranieri, innanzitutto perché c'è l'Unione Europea, per cui certi tipi di stranieri siamo tenuti ad accettarli, e poi perché al fatto che ne vengano certi altri, come i ricchi portatori di dollari o yen, non facciamo certo obiezioni, purché si intende non abbiano la pelle troppo scura. E per cui ci siamo rifugiati, come facciamo spesso, nel burocratese, creando dal nulla quel termine che è tanto offensivo nella sostanza quanto politicamente corretto nella forma. Un termine in cui il riferimento alle norme comunitarie è solo esteriore, è solo puramente di comodo, e quello che conta davvero e la volontà d'esclusione che esprime. Poi naturalmente a certi automatismi formali non è facile sottrarsi, e può capitare per un attimo che a fare le spese del razzismo latente del nostro allegro paese sia un distinto ingegnere di Boston, uno di quelli che chiunque, persino a Torino, sarebbe ben lieto di ricevere nel salotto buono all'ora del tè e dei pasticcini. E qualcuno, almeno sulle colonne dell'unità, se ne scandalizza. Ma senza notare che i motivi di scandalo andrebbero cercati un poco più a fondo. In effetti, sullo stesso numero di quel giornale la notizia, secondo me più grave, di un cittadino bengalese di 24 anni che a Roma ha tentato il suicidio perché il suo datore di lavoro gli aveva negato la regolarizzazione, che ha salvato la pelle proprio per un pelo, e bisogna andarsela a cercare in taglio basso in pagina interna. E sugli altri giornali del lunedì proprio non l'ho trovata. E anche i giornalisti evidentemente hanno il senso delle proporzioni. C'est pas mon dessert. Tu les avales, il en sort un bouc émissaire. Moi, c'est le doute qui